Ovviamente si avrebbe aspettato che tutti i partiti di opposizione avessero votato contro l'accordo di me, compreso gli unionisti nordirlandesi, però il fatto che ci ha sorpresi è stato il voto contrario dai deputati conservatori stessi, perché tra loro, tra i 320 deputati conservatori, 118 hanno votato contro me. Quindi è stato un ripudio di me anche più importante di quello già visto nel voto di sfiducia del mese scorso. Quindi la frazione del partito che vuole uscire dall'Unione Europea senza raggiungere un accordo ha dimostrato la sua forza. Diciamo un risultato appunto veramente clamoroso a livello di dati, è stata un record, tra l'altro non era mai successo nella storia inglese che una votazione fosse persa dal governo in carica con una distanza così forte di 230 voti. Che cosa significa questo in una visione futura della Brexit, anche considerando il fatto che sì, si voterà la sfiducia di May questa sera, però a meno che lei non venga sfiduciata, insomma, non sembra esserci una leadership alternativa a quella di May al momento. Sì, infatti il problema è che May senz'altro non riuscirà a trovare una o di ricomporre una maggioranza. Perché dovrebbe trovare più di 100 voti in più. L'Unione Europea ha già detto che non voglia fare più concessioni e in ogni caso stiamo parlando di poca roba, no? Quindi il problema è che se May non sarà in grado di trovare una via d'uscita, c'è anche il fatto che i conservatori, avendo già votato la fiducia nella sua leadership solo 4 settimane fa, non hanno la possibilità di sostituirla. Sarà più di un anno, quasi un anno prima della prossima opportunità di far eleggere un nuovo leader. Allo stesso tempo non c'è una maggioranza alternativa parlamentare e gli unionisti nordirlandesi hanno detto che voteranno la fiducia nel governo di May stasera. Una possibile alternativa sarebbe se May potesse assumere in proprio il progetto di Labour per la Brexit, cioè una versione più soft della Brexit in cui il Regno Unito rimane dentro l'unione doganale e mantiene rapporti molto stretti con il mercato unico, però dovrebbe far votare questo progetto con l'aiuto del Partito Laborista e contro i suoi propri deputati, che non sembra molto praticabile. Quindi direi che al momento tutto il momento sta con quelli che vogliono rimandare tutto il processo della Brexit, di sospendere l'articolo 50 e di organizzare un secondo referendum. Sì, perché insomma le opzioni che si erano delineate finora erano proprio quelle di un secondo referendum. C'è l'opzione che ci sia il voto di sfiducia, però appunto le probabilità che effettivamente sia sfiduciato il governo sembrano essere molto basse, e quindi così anche la terza opzione, che sarebbe quella di andare a elezioni generali, c'è quella di rinegoziare. Da una parte effettivamente Merkel ha allungato un salvagente, diciamo, a May, però in realtà poi dalla parte dell'Unione Europea non c'è stata questa stessa apertura, e infine c'è l'opzione del no deal, cioè che si esca comunque il 29 marzo ma lo si faccia senza un accordo. In questo momento quali di queste opzioni, diciamo, restano possibili? Senz'altro è possibile che potremmo uscire senza un accordo, sebbene non c'è una maggioranza parlamentare per questa opzione. È vero che se non troviamo un'altra soluzione, questo è in un certo senso il risultato default, nell'assenza di altre possibilità per trovare un accordo. Però anche vediamo che nel Parlamento ci sono dei deputati che si stanno organizzando per impedire un tal risultato, cioè vogliono, tipo c'è un emendamento per negare al governo ogni finanziamento per preparare le condizioni per un'uscita senza accordo, no deal. quindi al momento è molto difficile sapere cosa potrà succedersi, però direi che la soluzione più facile è di rimandare tutto il processo. C'è stata una decisione della Corte Europea per dire che sì, il Regno Unito ha il diritto di sospendere l'articolo 50. Il problema è cioè la decisione di uscire, il problema è che non si può sospendere questa invocazione questa sospensione dell'articolo 50 solo quale tattica di negoziazione. Sarebbe necessario dimostrare che abbiamo cambiato di idea e che non vogliamo più uscire, o almeno che ci sarà un nuovo referendum. Però per me sembra sempre più probabile che la soluzione sarà un secondo referendum. Non ci sono i numeri parlamentari, non permettono molto facilmente nuove elezioni generali, ed in ogni caso questo rischierebbe di produrre un nuovo stallo, anche perché non è detto che l'Unione Europea sarebbe disposta ad avviare nuove trattative con un nuovo governo. Quindi per me la soluzione più facile è un nuovo referendum, e l'alternativa sarebbe o l'accordo di May o rimanere dentro l'Unione Europea e abbandonare tutto il progetto della Brexit.